Questo è un podcast di Rivista Militare. La milizia nascosta, come Hamas ha costituito in silenzio un esercito organizzato, di Pierluigi Bussi. È opinione diffusa che le milizie che contrastano le forze israeliane consistono esclusivamente di combattenti non addestrati con armi poco sofisticate. Ma la realtà presenta un quadro ben diverso. Hamas dispone di un'entità militare ben organizzata e ben equipaggiata, guidata dalle brigate Izzal Din al-Qassam. Fondate nel 1991 e operative dal 1994, sono così chiamate in onore del martire omonimo, caduto nel 1935 combattendo gli inglesi. Sono il gruppo armato più grande e meglio attrezzato operante a Gaza. Hanno 6 reggimenti, ciascuno composto da 5 battaglioni, divisi in unità più piccole come compagnie e plotoni, distribuiti in tutta la striscia palestinese. In genere un reggimento è formato da circa 5.000 combattenti, anche se negli ultimi mesi il numero è diminuito in misura rilevante. Infatti, la dura controoffensiva delle forze israeliane in risposta all'attacco del 7 ottobre di Hamas nei villaggi a sud di Israele ha fatto registrare un notevole ridimensionamento delle forze messe in campo dalle brigate al-Qassam. Le capacità operative di ciascun battaglione variano sia per scopi difensivi che offensivi e comprendono un'ampia gamma di attività. Dal lancio di razzi a lungo e corto raggio, all'utilizzo di munizioni anticarro e degli UAV, Unmanned Aerial Vehicle, all'uso strategico dei tunnel. Un rapporto di Ar-Risala, organo di informazione molto vicino ad Hamas, illustra come la struttura militare è suddivisa in più unità: genio, fanteria, unità corazzate, artiglieria, forze speciali, difesa aerea e forze navali. Genio è una colonna portante delle brigate al-Qassam. Questa unità ha svolto un ruolo fondamentale nella costruzione dell'infrastruttura militare sotto la striscia di Gaza, nota come Gaza Sotterranea, un'intricata ragnatela che si estende per decine di chilometri di lunghezza. La forza del Genio è la segretezza durante le operazioni ed il costante sviluppo tecnologico. La fanteria è al primo posto in termini di forza numerica, con circa il 90% del totale della struttura paramilitare. L'unità è ben equipaggiata e preparata per qualsiasi situazione di combattimento. Addestrata per affrontare frontalmente il nemico, svolge un ruolo vitale nell'offrire aiuto durante le calamità naturali alla popolazione palestinese. Alle unità corazzate viene invece assegnato il compito di contrastare l'avanzata dei blindati israeliani. Il loro punto di forza consiste nell'utilizzo del lanciatore RPG-29, dotato di un razzo a carica tandem, capace di perforare ben 750 millilitri di corazza da una distanza di 500 metri. L'unità di combattimento più attiva e dinamica è l'artiglieria, che ha introdotto i razzi Qassam nel conflitto con Israele insieme ai razzi Grad russi e Katyusha libanesi. Le forze speciali, composte da circa 2.000 unità, conducono operazioni di infiltrazione dietro le linee nemiche, con l'obiettivo di penetrare nelle basi israeliane. Particolarmente temuti sono i comandanti di Nukba, unità delle forze speciali su cui non circolano molte indiscrezioni. Il nome deriva dall'arabo al-Nubka, che significa elite. Si ritiene che abbiano ricevuto addestramento in Iran e acquisito esperienza di combattimento in Iraq e in Siria, collaborando strettamente con Hezbollah libanese. Le brigate Izzal Din al-Qassam selezionano meticolosamente le figure che entrano nel bacino delle forze speciali, assegnando ruoli differenziati di massima difficoltà e rischio. Preparazione alle imboscate, penetrazioni in territorio israeliano attraverso i tunnel, attacchi con missili anticarro, razzi e fucili di precisione. Molti dei reclutati negli organici di Nubka hanno subito gravi perdite familiari a seguito delle azioni israeliane in territorio palestinese, e questo ha ulteriormente inasprito il loro sentimento di vendetta. Nei primi anni 2000, i comandanti delle brigate al-Qassam, sulla base di tecniche di addestramento acquisite in Iran, Siria e Libano, hanno dato vita a sistemi di difesa aerea. Questa unità specializzata è costituita esclusivamente da UAV, che seppur non dotati di armi, hanno la capacità di trasportare un carico importante di esplosivi per scopi mirati. In assenza di tali obiettivi, questi UAV sono dotati di telecamere integrate che consentono loro di condurre sorveglianza e raccogliere informazioni. Il drone Shabab, tecnologicamente più avanzato ed efficace rispetto ai precedenti, è quello utilizzato dalle brigate al-Qassam ed è in grado di trasportare grandi quantità di esplosivi. Negli ultimi anni, le brigate al-Qassam, nel loro obiettivo di ampliare il campo di battaglia in territorio israeliano, hanno creato un comando navale specializzato in attività marittime e sottomarine. Questa forza operativa è dotata di attrezzatura subacquea di massima qualità con bombole di ossigeno, orologi computerizzati e scooter subacquei. I componenti dell'unità possono rimanere sott'acqua per ore e spostarsi senza essere rilevati. Grande importanza per la resistenza palestinese sono i tunnel sotto la striscia di Gaza. Hamas li considera uno strumento militare essenziale per la sopravvivenza dei residenti di Gaza. Le brigate Izz al-Din al-Qassam hanno potuto beneficiare della vasta conoscenza di Hezbollah in materia di costruzione e sviluppo, messa in pratica e perfezionata dopo l'invasione israeliana del Libano meridionale dal 1982 al 2000. La lunghezza dei tunnel di Hamas è compresa tra i 2 e i 5 chilometri, la profondità dello scavo tra i 25 e i 40 metri. Molti di loro hanno acqua corrente ed elettricità. Le unità delle forze speciali Nukba hanno il compito di localizzare le uscite dei tunnel all'interno del territorio israeliano, con l'obiettivo di condurre attacchi a sorpresa contro il nemico. Le gallerie sotterranee offrono la possibilità di movimento in relativa sicurezza senza essere scoperti. La protezione dei tunnel impedisce ai bombardamenti israeliani di causare pesanti perdite e permette di fungere da centro operativo e decisionale durante le azioni militari. Hamas fa affidamento su un'attività di intelligence di alta qualità, utile a fornire alla leadership e ai suoi comandanti un vantaggio decisionale in ambito politico e militare. La Forza di Sicurezza Interna, ISF, è la principale organizzazione di intelligence, composta da membri delle forze di sicurezza Al-Ma'id, una costola delle brigate al-Qassam. Le loro attività vanno dallo spionaggio interno alla repressione dell'opposizione politica. Il podcast di Rivista Militare vi dà appuntamento al prossimo episodio.